Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. I numeri in crescita, i ricoveri in terapia intensiva e piuttosto nettamente, ora sono più di 500, in crescita anche ricoverati con sintomi, sono più di 5.000, dati che ancora una volta non sono confortanti e dai quali emerge una diffusione sul territorio nazionale più ampia rispetto a marzo, solo diciamo questo è un solo punto di vista territoriale. Ieri solo una provincia, quella di Vibo Valentia, non contava alcun nuovo contagiato. Il governo vara la ministretta straannunciata, ormai le regole le conosciamo, le sei persone in casa, il calcetto e via dicendo, si dibatte ancora di scuola e di didattica a distanza. Altri fronti e altre notizie. Cecilia Marogna, la collaboratrice del cardinale Becciu, è finita in manette a Milano. Negli Stati Uniti Trump torna all'attacco di Biden, mentre i sondaggi, per quel che valgono, lo danno in svantaggio di 17 punti. E poi la positività di Cristiano Ronaldo, ma quanto durerà alla fine questo campionato? Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Mattino di Simone Spezia. È mercoledì 14 ottobre, care ascoltatrici, cari ascoltatori, sono le 6 e 32 minuti, c'è Carmelo Lauricella in regia, c'è Giorgio De Luca in assistenza in redazione. In redazione ci sono come sempre anche Gloria Guerrera, Alessandro Marco Tulli, i nostri autori Margherita Ina e Francesco Ciaraffo. E oggi, ieri è stato il giorno della famosa mini stretta del governo, ma sentiamolo subito il Presidente del Consiglio, Carmelo. Ovviamente non manderemo, voglio essere chiaro, le forze di polizia nelle abitazioni private. La sfera di vita privata la vogliamo assolutamente tutelare. Non lo so, veda un po' lei, Presidente, ci mancherebbe altro che mi manda la polizia a casa. Tra l'altro è un avvocato, lo sai che ci vuole, no, un ordine del magistrato per mandarmi la polizia a casa. Non esageriamo. Le mascherine anche in casa, se hai delle persone fragili, niente feste, più o meno lo sappiamo, però sentiamolo, va. Anche nelle abitazioni private dobbiamo assumere comportamenti corretti. Come? Indossando le mascherine se ci si avvicina a persone fragili, vulnerabili. Se si ricevono ospiti, persone non conviventi, anche lì ci può essere una fonte di pericolo. E vi invitiamo a limitare anche il numero di ospiti, non superiori a 6. E assolutamente vi invitiamo a non consentire lo svolgimento di feste, di party nelle abitazioni private. Sono tutte situazioni di pericolo, insidiose, che ovviamente possono farci sfuggire la situazione di mano. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, SMS, messaggi su WhatsApp. Lo sapete, siamo qua per parlare anche, per esempio della questione della scuola. Sentiamo la ministra Azzolina su quest'idea che era circolata, che era stata presentata in parte dai governatori, dai presidenti di regione, di far tornare i ragazzi delle superiori dai 16 anni in su alla didattica a distanza, esclusivamente la didattica a distanza, per svuotare un po' il trasporto pubblico. Azzolina. Mi spiace che qualcuno pensi che gli studenti e le studentesse italiane possano essere sacrificabili. È una questione di priorità. Il tema è la criticità dei trasporti. Dice Azzolina, si lavori sulla criticità, che sono i trasporti, appunto. Che si viva una situazione complessa e che ci siano delle criticità sui trasporti è evidente, ma la soluzione non è mica lasciare gli studenti a casa. Si lavorerà sulla criticità sui trasporti, si lavorerà tutti insieme, si troverà una soluzione, ma non di certo lasciare gli studenti a casa. E devo dire, su questo, oltre a dar ragione all'Azzolina, devo dire la verità, si stanno levando delle voci che dicono il governo avrebbe dovuto scaglionare gli orari di ingresso alle scuole. pensare a una didattica in parte a distanza, in parte in classe. Allora, a parte che questa seconda cosa già la stanno facendo le singole scuole, si stanno già organizzando. Io non so com'è la vostra esperienza, ma per quanto riguarda la mia e quelle che sento in giro da persone che hanno figli della stessa età, sta succedendo più o meno la stessa cosa con i figli adolescenti. E poi, abbiate pazienza, ma può essere il governo a decidere che ne so, la città di Milano o la città di Roma, che hanno le loro esigenze specifiche, una distribuzione scolastica specifica, può essere il governo a livello nazionale a decidere che in quel quartiere si entra in una scuola alle 8 del mattino, in un'altra scuola alle 9 del mattino, in un'altra scuola alle 9 e mezza? Saranno pure le scuole a doversi organizzare, i comuni a doversi organizzare e le regioni a doversi organizzare. Insomma, qua non risparmiamo mai critiche al governo quando ce ne devono essere, però abbiate pazienza, eh. Gli enti locali dove sono finiti? Cara Stefania Pinna, bentornata, che bello averti di Sky TG24, come stai? Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Simone, buongiorno a tutti. Conduce bene, Timeline diciamo. Alle 15, Stefania Pinna. Cara Stefania, oggi sono partito un po' caldo, è così, questa cosa della scuola, mi fa imbestialire un po'. Soprattutto, imbestialire un po' tutti. Soprattutto Stefania, guarda, la cosa che mi fa imbestialire è la ripartenza dello scaricabarile tra regioni e governo, tra governo e regioni, tra regioni e comuni, tra comuni e regioni. Mi fa diventare pazzo questa cosa qua, sembra di ritornare a marzo-aprile appunto. Questo è sempre accaduto, sempre accadrà. Ieri, a proposito di scuola, dicevi sono gli enti locali, sono le scuole, e in effetti sono le scuole, perché noi parliamo tanto di autonomia scolastica, in questo caso in effetti sono i singoli istituti che si devono in qualche modo organizzare. Tu dicevi che quelli che conosci tu, i genitori che conosci tu, ti raccontano che gli ingressi sono già scaglionati, giusto? È questo che in parte sì, in parte gli ingressi sono scaglionati, dove si riesce naturalmente, e in parte già si fa didattica a distanza da una parte, no, fai 3 giorni di didattica a distanza, 3 giorni alterni come puoi, ovviamente, no? Solo che, cioè, perlomeno dove, per quel che riguarda le scuole, diciamo, dei bimbi più piccoli, in realtà stanno scaglionando, e anche qua parlo per esperienza diretta, di 10 minuti in 10 minuti, cioè che è uno scaglionamento fatto solo per evitare gli assembramenti. Un micro scaglionamento. Ma è fatto più per i genitori che per il resto. Su l'affollamento dei mezzi pubblici, che mi sembra davvero il tema adesso, l'urgenza da risolvere, almeno per le grandi città, devono muoversi diversamente. Ieri De Caro dell'ANCI ha detto oggi incontriamo il governo proprio per questo, cioè per chiedere al governo di spingere verso i comuni e singoli istituti perché si organizzino per scaglionare per bene, perché in effetti quello può essere un modo, forse l'unico per svuotare, anche perché questa capienza dell'80% si è capito che... Ma no, è una buffonata, credo, Stefania. Non la ridurranno, ma poi Stefania, è una buffonata, 80% vuol dire 100%, no? Che vuol dire 80%? Ma poi, scusami, no, il controllo alla metro. Allora, l'80% dice ATM, no, per Milano, ma credo che funzioni così per tutti. Loro segnalano ovviamente gli ingressi nel momento in cui una persona entra alla stazione della metro, però poi è chiaro che quell'80%, che sarà credo sull'intera giornata, ci sono mezzi in quell'80% che sono pieni al 120%, cioè alle 8 del mattino e magari alle 11 o in altri orari ovviamente sono vuoti, cioè, ma questo è chiaro. Ovvio. Va pensata diversamente. Sì, no? Va pensata diversamente, dice un ascoltatore. Io, come al solito, non capisco come in 6 mesi non siano riusciti ad organizzarsi con un trasporto pubblico adeguato alle esigenze e con lo scaglionamento. Sono cose delle quali parliamo, infatti, a tutti gli effetti, da quattro mesi. Ah, a proposito di De Caro, non so se l'hai visto ieri. Da dove era? Adesso lo chiedo. Adesso, e forse a Sky TG24. Forse proprio da voi, a Sky TG24. è proprio da voi che ha giocato con i pupazzetti che aveva sulla scrivania. Sentiamolo. Dipende dal nostro senso di responsabilità. Non verranno un milione di agenti delle forze dell'ordine a controllarci, non ci verranno, non ci saranno tante forze dell'ordine, non verrà, provo a vedere quello che c'è sulla scrivania, non verrà l'Umarell a chiedervi di rispettare le restrizioni, non verrò io a dire questo, che questo me l'hanno regalato, me l'ha regalato un'azienda barese, non verrò io a dire ci sta facce do, e non verrà nemmeno, chi è questo, Goldrake, che vi verrà a dire di rispettare le restrizioni. Lo dobbiamo dire noi a noi stessi, solo così riusciremo a superare questo periodo. Vabbè, vabbè, De Caro che gioca, no, con questo non è accaduto da me. No, da voi, non è accaduto da te. De Caro. Ho preso un colpo perché dico, può essere che non me ne sia accorta. Però ti sei accorta che stava giocando con i pupazzetti, De Caro. Allora, però allora forse ho capito perché quando invece era da me era molto composto, sì, era molto, immobile. Molto. Si è fermato, si è tranquillizzato. E dice Luca Zaia, io in effetti proponevo didattica mista, ripeto, forse le scuole su questo si possono organizzare loro stesse. Comunque sentiamo Zaia. È bene già essere organizzati per attivare il progetto che è previsto nelle linee guida con la formazione, diciamo, mista. Qualche scuola lo fa già, peraltro, coinvolgendo magari i ragazzi degli ultimi anni. Non è che spariscono dalla scuola, magari si fanno una settimana con didattica a distanza e magari le altre 3 settimane del mese se le fanno a scuola, ma comunque per attenuare l'impatto. Così dunque Zaia, ancora la didattica a distanza. Ilaria Capua, ieri l'illustre virologa dagli Stati Uniti, ospite di martedì se non vado errato, si lascia un po' andare. Io penso adesso che i ragazzi delle superiori non possono soltanto fare didattica a distanza, perché sennò sclerano, e penso invece che bisognerebbe sviluppare un modello ibrido, misto, nel quale i ragazzi trovano anche lo spazio per socializzare. Sclerano i ragazzi se restano a casa. Come dare torto a Ilaria Capua. Senti Stefania, non ci sono file audio su questo perché il silenzio regna sovrano su questo tema. Io non so se sei affascinata come me da tutta la vicenda che sta avvenendo intorno al Vaticano, che si arricchisce ogni giorno di elementi nuovi. Ieri hanno arrestato Cecilia Marogna, sì, la collaboratrice del cardinale Becciu, che avrebbe utilizzato i 500.000 euro che servivano per esempio pagare riscatti o comunque gestire i sequestri dei prelati e dei missionari avvenuti in luoghi a rischio per comprarsi le borse di Prada, tutte queste cose. No, forse non so se spesa anche da poltrona stau. Sei affascinata come me, tra l'altro è gente che viene dalle tue terre, Stefania, sono tutti sardi, che la Marogna, sì. Devo dire per caso in questo. Lo voglio ben sperare, naturalmente non si vuole gettare la croce sui sardi. E poi c'è, noi ci stiamo avvicinando a queste elezioni americane, cara Stefania, sulla quale c'è l'ombra del Covid, soprattutto della malattia del presidente americano. I sondaggi di questa notte lo danno 17 punti percentuali sotto Biden. Però secondo, chissà questi sondaggi quanto ci prenderanno. Non lo so, perché secondo me agli occhi almeno dei suoi elettori, che poi ovviamente bisogna sempre capire a chi parla, il Covid secondo me lo ha reso anche più forte agli occhi dei suoi elettori, perché l'ha sconfitto dopo pochi giorni, è uscito grazie a quel cocktail costosissimo di farmaci. Ieri ha gettato mascherine, quindi parla sempre ovviamente al suo elettorato. Poi magari sugli indecisi può avere una presa differente in questo momento, quindi insomma, 16 punti sotto sarebbero in teoria tanti, però appunto chi se la sente di fare adesso un pronostico? Siamo al 14 ottobre, vediamo. Sì, manca poco, tra l'altro c'è sempre questa questione che riguarda i sondaggi, succede a volte, e successe in passato, ne abbiamo avuto testimonianza anche in Italia, che quando si fa un sondaggio qualcuno si vergogna a dire come vota, cioè non è necessariamente orgoglioso, no, perché uno magari ha un gruppo di sostenitori molto forte, che quando lo chiamano dico sì, voto orgogliosamente per Donald Trump. Qualcun altro dice, vabbè, però c'è un po' di riprovazione sociale intorno al voto su questo candidato e quindi nemmeno al sondaggista gli dico che voterei Trump. E finisce poi che le percentuali si modifichino notevolmente. È successo in passato e la cosa ha riguardato per esempio l'Italia e per esempio il caso di Silvio Berlusconi, che spesso viene paragonato al presidente americano. Il traffico. Mattino. Arriva un nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e come ormai da tradizione torna da noi Alfonso Castellone, comandante della Polizia Locale di Olgiate Olona, provincia di Varese, e vicepresidente dell'Associazione Nazionale Comandanti Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale, per aiutarci a capire cosa possiamo fare e cosa non possiamo fare e dove gli occhiuti agenti della Polizia Municipale interverranno per colpirci. Castellone, buongiorno e benvenuto. Bentornato. Buongiorno a tutti, grazie ancora di avermi invitato. Ormai per noi è un appuntamento fisso con lei ogni volta che arrivano nuove regole. Dopodiché mi avete svegliato presto, io sono pronto operativo per fare un po' di multa in giro. Certo, naturalmente, andare a beccare gente senza mascherina subito. Anche perché vi siete persi un pezzo, c'è stata una modifica del precedente decreto legge che dava la possibilità ai comuni di prendere i proventi delle sanzioni del Covid, quindi Strano che non l'abbiate detto, i comuni vanno fuori a fare cassa, mannaggia. E questo, visto che tra l'altro le casse si sono svuotate molto in quest'ultimo periodo col Covid, come ben sappiamo. Ascolti Castellone, partiamo dalle feste, va, che è tutta la cosa della quale tutti hanno dibattuto infinitamente. Là voi così come polizia e carabinieri in realtà non avete margini di intervento, cioè il Presidente del Consiglio dice non manderemo la polizia a casa, però in realtà non ci può entrare la polizia a casa, molto semplicemente. Diciamo che c'è quell'articolo 14 della Costituzione che dice che il domicilio è inviolabile ed ha alcune eccezioni, credo che questa non sia un'eccezione prevista dalla normativa, e quindi giustamente, come diceva prima Conte da buon avvocato, ma anche di qualche consulente al primo anno di giurisprudenza, gli avrà detto anche attenzione che non è che si possa fare in questo modo. Sì. Metta questo, lei è là nel comando di Polizia Municipale di appunto Olgiate Olona, le arriva una telefonata di un signore che dice guardi, al piano di sopra sento rumore di una festa, che cosa fate? Possiamo fare noi. Guardi che comunque le telefonate arrivavano anche prima, di gente che era in giardino, io di Covid, fase 1, e qualcuno gli diceva, ma lì c'è l'assembramento, sono arrivati i nonni che non abitano lì, e quindi era così anche prima. La complessità di questa. E voi come vi muovevate prima e come vi potreste muovere adesso? Ci muovevamo eventualmente appunto andare a bussare a casa dicendo attenzione, ricordatevi delle raccomandazioni, ed è quello che si farà sostanzialmente adesso, se ci sarà poi la disponibilità del personale, perché poi si sarà impegnati all'esterno, perché i problemi grossi sono anche all'esterno, come è stato dichiarato da Presidente Conte, no? Per quanto riguarda le attività che devono chiudere prima, le attività di somministrazione. Quindi immagino, Castellone, che l'attenzione si concentrerà soprattutto su quello, cioè sul fatto che i locali chiudano a mezzanotte e che le persone indossino le mascherine. Questo esatto. Sarà. La novità chiaramente è stata apportata dal fatto che bisogna portare dietro la mascherina, questa è una novità, nel senso che siccome non c'è l'obbligo di indossare la mascherina dappertutto, ci sono quelle eccezioni che sono state già in qualche modo chiarite, se sei in mezzo ai boschi da solo, se sei in un parco da solo ti puoi anche non indossare la mascherina, però nel momento in cui si avvicina qualcuno la devi indossare, ed ecco perché c'è l'obbligo di averla sempre dietro, è una novità importante. Mettiamo piazza deserta, faccio un esempio molto mio, strada deserta alle 4 del mattino. Siccome il decreto parla di circostanze di fatto, quella è una circostanza di fatto, nel momento in cui può girare senza mascherina, nel momento in cui arriva una pattuglia della Polizia di Stato che si avvicina per controllare, a lei deve tirar fuori la mascherina e deve indossarla, così come il personale della Polizia di Stato, della Polizia Locale, dei Carabinieri, nell'avvicinarsi dovrebbe indossare la mascherina. Però non, in quel caso non dovrebbe scattare la multa in una situazione di quel genere. No. Altro esempio pratico, il fumatore, in una situazione non proprio non affollata, ma nemmeno desertica, cosa deve fare, cosa può fare, cosa non può fare? Ricordo che anche lo stesso decreto dice che per prima cosa da rispettare è il mantenimento delle distanze di sicurezza interpersonale, quella è la prima, ed è applicabile dappertutto, all'interno e all'esterno, questo è quello che si dice. Quindi devo fumare, così come al bar abbasso la mascherina per bere il caffè, devo stare lontano o almeno un metro appunto dalle altre persone. Questo è. Dopodiché la mascherina deve essere sempre a portata di mano con le sigarette. Questo è. Non è vietato fumare all'aperto, occorre adottare questi sistemi di prudenza. Così come diceva prima anche il Presidente Conte, anche nel tempo di lockdown si diceva attenzione ai nonni, ad andare a dare assistenza ai bambini piccoli, perché anche lì si rischia del contagio. È quello che viene detto adesso, anche di stare attenti ai non conviventi che vengono a casa. Qua è stato aggiunto, ricordatevi della mascherina, ma in realtà era così anche prima della raccomandazione. Chiedo un ascoltatore, chiedete cosa succede se si rompe la mascherina. Io là immagino Castellone nel vostro buon cuore, cioè lo fai vedere al poliziotto, gli dici guardi, vede qua, mi si è appena rotta, che posso poi fare? Dove abiti? No, esatto. In realtà c'è stato il periodo in cui le polizie locali, ma anche la Polizia di Stato e i Carabinieri, avevano una dotazione di mascherine, è capitato che siano state anche consegnate, soprattutto alle persone anziane sprovviste di mascherina nel periodo. Questo potrebbe capitare. C'è una norma del codice della strada che dice che chi porta le lenti a contatto e guida deve avere a disposizione il paio di occhiali di riserva, diciamo che anche questo potrebbe essere. Quindi portatevi dietro un'altra mascherina. Sì, per carità. Cara Stefania Pinna, la vedo un po', cioè, mi sembra di essere tornato indietro. Ma chi è che gira con una sola mascherina, però? Forse pecco di eccesso di prudenza, ma io la chirurgica per quando dall'altra sono parte, lavoro, dall'altra ferma. Parte il vetro la SFP2 per quando vado in vetro. Ammazza, fantastica. Bisogna organizzarsi. Sì, io guarda, quando hai detto chi è che gira una sola mascherina, sono Carmelo Lauricella e Giorgio De Luca dall'altra parte del vetro, che mi hanno alzato, hanno alzato tutti e due la mano dicendo io giro con una sola mascherina. Va bene. Allora, un ascoltatore dice, un altro chiede, che fine hanno fatto tutti i proclami sul vaccino entro l'anno? L'hanno detto, noi ci siamo già occupati di questa vicenda, magari ci torneremo altre volte. È un temone enorme, perché il professor Crisanti, ospite da noi, ha detto guardate che per alcune patologie, per alcuni virus, il vaccino non si trova proprio. Quindi questi proclami sull'entro fine dell'anno, ve lo dico, la mia impressione è un'impressione personale, prendetela per quello che è, magari le grandi farmaceutiche che stanno lavorando tutte insieme ci riusciranno, però la mia impressione per quello che è questa: la politica a livello internazionale sta facendo in modo per così dire anche tener calmi gli animi, ma anche correttamente, e dire attenzione, il vaccino arriverà presto, ci sarà presto. La realtà è che arriverà presumibilmente, non sappiamo esattamente con che tempi. Ieri hanno bloccato la sperimentazione della Johnson & Johnson per un malato, e quindi dovremo vedere esattamente cosa succederà. Un altro ascoltatore chiede, parlate anche di altro oltre che di Covid. Adesso alle 6:30 abbiamo aperto la giornata così, è il grande tema di giornata, ovviamente un po' ci torneremo in parte in rassegna stampa, ma alle 8:35 ci occuperemo, guardi, veramente di tutt'altro. Grazie Stefania Pinna, Sky TG24, conduce Timeline, tutti i pomeriggi alle 15, Alfonso Castellone, comandante della Polizia Locale di Olgiate Olona, provincia di Varese, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Comandanti Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale. Grazie a voi che siete intervenuti, continuate a farlo, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, SMS, messaggi su WhatsApp, la nostra diretta Facebook e tutto il resto. A dopo GR24 con la rassegna stampa.